Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, benvenuti, bentornati a Magazine 24 e soprattutto buon Ferragosto anche da parte mia. Una giornata di festa che possiamo anche utilizzare se abbiamo voglia per leggere qualche articolo su qualche magazine, su qualche rivista italiana o straniera. C'è tradizionalmente un po' più di tempo per concentrarsi sulle tematiche diverse magari da quelle dell'attualità più pressante. Allora cominciamo da un argomento che invece è molto attuale, proprio per contraddirci subito, e parliamo di Superenalotto. In realtà credo che oramai noi italiani non parliamo d'altro se non di questo jackpot mirabolante che è arrivato ormai sopra i 130 milioni e che appunto stuzzica la fantasia, anche se gli statistici ci hanno spiegato che dovrebbe essere più probabile essere colpiti da un meteorite piuttosto che vincere al Superenalotto. Può essere anche vero, però prima o poi qualcuno vincerà, e allora è anche bello vedere come questa attesa per la vittoria trova spazio sui magazine. Ad esempio c'è stata un dibattito interessante, anche se durato poco, su cosa fare di questa maxi vincita, perché il Monsignor Alberto D'Urso, che è segretario della Consulta Nazionale per l'Antiusura, ha detto: ma se utilizzassimo questa somma per aiutare i terremotati d'Abruzzo e quindi rinunciare in qualche modo a questa vincita per devolvere e per dare anche un segnale etico, morale, di moralità pubblica sul Superenalotto. La proposta ha fatto discutere per qualche giorno, poi è stata abbandonata in favore di altre polemiche estive. Ci torna però Donna Moderna questa settimana, mette a confronto un cattolico e un laico. Il cattolico è il cardinale Ersilio Tonini, arcivescovo emerito della diocesi di Ravenna e Cervia, e il laico invece Giovanni Bellardelli, che insegna storia del pensiero politico all'Università di Perugia. Il Superenalotto divide, il jackpot ai terremotati o ai giocatori? Questa è la domanda che viene rivolta molto secca ai due intervistati da Donna Moderna questa settimana nel servizio che è curato da Antonella Trentin. Allora vediamo, naturalmente Tonini è abbastanza favorevole, anche se va detto non completamente favorevole. Dice: la trovata in sé sarebbe buona, risponde il cardinale, peccato che poi nessuno si fiderebbe più e il Superenalotto sarebbe belle finito. Allora chiede la collega Trentin: consiglierebbe allora al fortunato vincitore di donare una parte del ricco montepremi ai terremotati? Certamente, sarebbe un modo, dice efficacemente Tonini, di riparare, di alleggerire il suo peso di fronte a tanto denaro. Di riparare cosa, cardinale? È la domanda della Trentin. Non mi piacciono i giochi, risponde Tonini, che solleticano il desiderio di lucro della gente, facendo credere che si fa del bene alle casse dello Stato. Non giovano certo al guadagno morale del singolo. Non è troppo severo, cardinale, lo incalza sempre Donna Moderna. Se uno gioca pochi soldi, in fondo non fa nulla di male. Questo era vero in passato. Ora che i premi sono diventati altissimi, la gente spende molto di più. A volte si rovina, come col poker, e il rischio è che diventi una vera malattia. Chiede allora Antonella Trentin, come domanda conclusiva: tra i suoi parrocchiani c'è stato qualche giocatore compulsivo, cioè ossessivo, ossessionato dal gioco? Altro che, ricordo un padre di famiglia che ha perso tutto, la moglie è stata costretta ad andare in montagna a fare la cameriera per mantenere i figli. E altre vicende, anche concluse con esiti più infausti, vengono ricordate poi da Tonini. Quindi una posizione, diciamo, se non proprio favorevole a devolvere il montepremi in favore dei terremotati o comunque di comunità che possono averne particolare bisogno in questo momento, Tonini ammonisce sui rischi di questo gioco, di questi montepremi così alti, che poi possono innescare appunto dei meccanismi compulsivi nei confronti dei giocatori. Di tutt'altro avviso Giovanni Bellardelli, come vi dicevo, docente di storia del pensiero politico a Perugia, dice: anche a me stanno a cuore i terremotati d'Abruzzo, ma non credo che il Superenalotto sia lo strumento giusto per aiutarli. Molto meglio la leva fiscale, cioè lo Stato che istituisce una tassa speciale a favore dei colpiti dal sisma, facendola pagare a tutti gli italiani. Oppure, come è accaduto finora, gli aiuti possono arrivare sotto forma di contributi volontari. In realtà mi piace ricordare qui, tra parentesi, che esiste un gratta e vinci anche intitolato a questa finalità, cioè proprio di aiuti per l'Abruzzo. Non ha avuto una grande fortuna finora. Perché il Superenalotto no? chiede Antonella Trentin, sarebbe come aprire il vaso di Pandora. Dopo quello, quale altro intrattenimento voluttuario colpiremo? Vogliamo eliminare dalla TV spettacoli costosissimi come la Formula 1, oppure abolire per un anno il campionato di calcio e con i soldi risparmiati risolvere qualche grave emergenza del paese? Per far questo bisogna compilare una lista dei divertimenti superflui. Sarebbe piuttosto complesso, oltre che sbagliato. Perché sbagliato? Perché il Superenalotto, spiega Bellardelli, è una cosa che dà la possibilità di sognare, come una gara della Ferrari, come un bel film che ci fa immedesimare nella vita di qualcun altro. Beh, il Superenalotto, l'ultima domanda di Antonella Trentini, in realtà ci fa sperare di diventare ricchi. No. Insisto, ci fa sognare, risponde Bellardelli. Sappiamo che è difficilissimo vincere, lo dicevamo prima, però accarezziamo l'illusione. La dimostrazione è che con il Superenalotto non si diventa mai compulsivi. Il desiderio continuo di giocare viene quando si hanno possibilità concrete di vincere, come a poker. Qui non c'è nulla di certo, solo lo spirito lieve della fantasticheria. E restiamo sul Superenalotto perché della materia si occupa anche l'editoriale di Famiglia Cristiana di questa settimana, ma da tutt'altro aspetto. Infatti spiega il titolo, l'altra faccia di un'Italia che è sempre più povera. La mania del Superenalotto ha contagiato tutti, anche i comuni. A cosa facciamo riferimento? Alla iniziativa presa da alcune amministrazioni locali di acquistare biglietti del Superenalotto nella speranza di una vincita che potesse ripianare, appunto contribuire al miglioramento delle finanze comunali, delle finanze locali. Questo segnale viene molto opportunamente, direi, colto da Famiglia Cristiana, che dice nel tentativo di centrare il 6 al Superenalotto la mania del gioco ha contagiato tutti, persino le amministrazioni locali che sperano vincendo di risolvere i loro problemi. Ricorda l'editoriale a Sarzana, provincia di La Spezia, è stato l'assessore alle finanze a puntare a nome del comune, a Ficarra, provincia di Messina, a Varallo Sesia, in provincia di Vercelli, e ad Anguillara, in provincia di Roma, sono stati i sindaci a lanciare l'idea. Quindi giunte di centrodestra e centrosinistra alla caccia del 6, con l'intenzione, in caso di vincita, di completare le opere in corso, tagliare tasse e mutui e magari distribuire il rimanente ai cittadini. Scopi nobili, argomenta Famiglia Cristiana, senza dubbio, a favore della collettività. Ma perché dobbiamo sperare in una schedina? Già lo Stato incassa con giochi e lotterie moltissimi denari, che naturalmente vengono reinvestiti in situazioni di bisogno, l'ultima il terremoto in Abruzzo, anche qui viene ricordato, ma ora anche nelle amministrazioni comunali si sono ridotte a sperare nell'estrazione vincente? Il destino delle città quindi è affidato alla cieca fortuna? Pochi casi in verità, ma sintomo preoccupante di una situazione anomala. Il che nasconde, la conclusione dell'editoriale, un pericolo più grave, quello di concentrare le speranze di una vita migliore sulle puntate invece che sulle proprie capacità di modificare il futuro, di affidarsi alla dea biandata, non all'impegno nello studio e nel lavoro, impegno magari faticoso ma concreto e reale per costruirsi un domani più sereno. Questo è l'ammonimento di Famiglia Cristiana in qualche modo sugli effetti che possono derivare dall'affidamento cieco per il Superenalotto. Ma in fondo, siccome parliamo di un gioco, poche pagine più avanti una vignetta di Famiglia Cristiana mostra due sindaci a confronto. Uno dice: caro collega, anche tu per ripianare il bilancio comunale giochi al Superenalotto. L'altro sindaco risponde: no, gioco all'autovelox. E con questa vignetta forse sdrammatizziamo un po' un dibattito che ha una sua serietà effettivamente sulla opportunità di destinare o meno in beneficenza almeno una parte di questa colossale vincita che aspettiamo. Ricordo che l'estrazione prossima è lunedì prossimo 17. Allora, cambiamo completamente argomento, passiamo a un settimanale straniero, Nouvel Observateur, settimanale francese, perché Nouvel Observateur torna su un tema di cui ci siamo già occupati, prendendolo però più spesso da magazine di lingua inglese. Si tratta delle cure all'estero, il turismo medicale, così viene definito. Il caso che ha mosso l'attenzione dei giornalisti francesi è l'Ungheria, perché in Ungheria c'è una sorta di migrazione costante di francesi che vanno a curarsi i denti, vanno dal dentista in Ungheria. Non è comodissimo, ma sicuramente è conveniente, come riferisce appunto Nouvel Observateur. Ci sono la possibilità di fare delle radiografie molto complesse a 76 euro anziché 350, i prezzi sono francesi, ognuno poi troverà prezzi naturalmente anche diversi. Corone a 200 euro anziché 500, impianti a 300 euro che costerebbero 800 euro in Francia. In più i pazienti sono in condizione di farsi rimborsare dal Servizio Sanitario Nazionale francese. Modalità di rimborso per cure prestate all'estero esistono in tutti i paesi, anche in Italia. Un box all'interno di questa inchiesta in cui Natasha Tatu si occupa soprattutto del caso del turismo odontoiatrico dalla Francia in Ungheria, un box però ricorda che questo tipo di attrazione globale per le cure all'estero ha oramai diversi poli. Infatti si parla di nuovi poli della sanità e si fanno dei casi. La Tunisia, si riferisce, è diventata la Mecca per gli interventi al seno, la liposuzione e altri interventi sui capillari. Le Filippine sono riconosciute come centro di eccellenza per i trapianti di reni. Israele è un centro pure di eccellenza per i trattamenti contro la sterilità. E tra l'altro nei paesi anglosassoni si riferisce quasi sono le stesse autorità che in un certo senso incoraggiano questo tipo di turismo. Perché? Perché, polemicamente annota un osservatore, in fondo è preferibile inviare i propri pazienti all'estero piuttosto che investire magari somme molto importanti per migliorare l'offerta del sistema sanitario. Un dato è interessante: secondo uno studio di Deloitte ci sono stati 750.000 statunitensi che hanno attraversato la frontiera per farsi curare all'estero nel 2007, ma se ne aspettano 6 milioni, quindi da 750.000 a 6 milioni nel 2010, quindi con un aumento del 100% ogni anno. Il box, il lavoro di Nouvel Observateur, si completa poi con una cartina del mondo in cui sono inseriti alcuni di questi centri, appunto di questi poli sanitari della globalizzazione. Ad esempio si scopre che a Cuba è conveniente, e si trovano naturalmente cure d'avanguardia per gli occhi e per l'ortopedia, che a Singapore c'è un centro di eccellenza per la chirurgia plastica o anche per i trapianti d'organo e naturalmente anche per l'odontoiatria che compare in diversi paesi europei dell'est, in Ungheria, in Romania e in Bulgaria. Ancora in Thailandia, altro centro di eccellenza a costi minori per l'estetica, per la chirurgia estetica e per le terapie per la fertilità. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24, abbiamo ascoltato le informazioni sul traffico e mi sono ricordato che su Focus di questo mese ci sono un paio di indicazioni interessanti proprio relative ai viaggi. L'una è relativa agli aeroporti. Focus presenta questo mese un'inchiesta corredata da ampie fotografie e casi particolari proprio sugli aeroporti. Viaggio negli aeroporti più straordinari del pianeta, avveniristici in cima a un cucuzzo o tra le strade di città. Si scopre tra l'altro che il più grande terminal del mondo è a Pechino, nell'aeroporto internazionale, che quando funzionerà a regime potrà accogliere 85 milioni di passeggeri l'anno. È il Terminal 3, che è stato inaugurato poco prima dei Giochi Olimpici del 2008. Copre 1 chilometro quadrato circa e vuol dire più dei 5 terminal di Londra Heathrow messi insieme. La progettazione e la realizzazione sono costate un paio di miliardi di euro. Qui Focus, evidentemente la cifra talmente imponente che ha dovuto rinunciare alla proverbiale accuratezza per accontentarsi di un valore stimato. Effettivamente l'immagine poi conferma l'impatto avveniristico di questo aeroporto a Pechino. Ma ci sono poi tra le pagine di questa inchiesta anche delle indicazioni molto curiose. A Gibilterra, ad esempio, l'aeroporto, una pista dell'aeroporto attraversa una strada trafficata di normale traffico. Quindi la didascalia che correda e spiega questa foto dice: tutti fermi al semaforo perché deve passare un aereo. Pista con semaforo esiste ed è a Gibilterra, fortunatamente anche una delle poche al mondo. Qui quando i velivoli atterrano o decollano devono attraversare una strada, si chiama la Winston Churchill Avenue. Il traffico è obbligato a fermarsi, dando luogo a un originale scenario. E si vede infatti in questa foto l'aereo che attraversa un viale a quattro corsie e con delle macchine in coda a un semaforo. Immaginatevi un aereo che passa nel viale venendo da sinistra o da destra, insomma il viale che state incrociando. La pista tra l'altro è parallela alla linea di confine con la Spagna. Ogni decollo e atterraggio, anche la frontiera che è situata proprio su quella via, la Churchill Avenue, chiude. In media l'aeroporto accoglie 7 voli in arrivo e in partenza ogni giorno. La pista è considerata attiva una decina di minuti per ogni volo e quindi si fa il conto che questa strada non è di fatto praticabile per circa 2 ore al giorno. Un caso curioso a Gibilterra è l'aeroporto invece più frequentato del mondo, non il più grande che abbiamo visto essere a Pechino, la più frequentato del mondo è l'aeroporto di Atlanta, Hartsfield-Jackson di Atlanta negli Stati Uniti. Nel 2008 ha superato la quota record di 90 milioni di passeggeri, quindi vuol dire una volta e mezzo la popolazione italiana. Per la costruzione della sua quinta pista, lo scalo ha dovuto tagliare anche qui una grande arteria di comunicazione stradale, un'autostrada di fatto, un po' come accade a Gibilterra, però lì l'impatto era molto più importante perché la Interstate 285, che è appunto la strada che ha dovuto cedere il passo alla pista dell'aeroporto, è di 10 corsie e fa da tangenziale per Atlanta. La strada è stata così interrata per un tratto e questo interramento ha consentito di costruire la pista. Evidentemente non è piaciuta ai cittadini di Atlanta l'ipotesi di mettere un semaforo, così come invece è successo a Gibilterra. Sempre da Focus, una piccola curiosità: non so se è successo mai anche a voi di dover sostenere un dibattito in automobile su accendere il condizionatore, ovvero abbassare i finestrini. C'è chi preferisce un rimedio, chi ne preferisce un altro. Allora, su Focus un approccio un po' più scientifico alla questione: climatizzatore o finestrino aperto? Questo è il dilemma. Dice Focus: su quasi tutte le auto c'è un condizionatore, rinfresca l'abitacolo, ma aumenta i consumi in media dal 7% al 20%. Quindi c'è anche un problema non solo di effetto percepito a livello personale, ma anche di aumento dei consumi per l'automobile. Per questo c'è chi suggerisce di non usarlo abbassando i finestrini. Spiega Focus che è una questione di velocità. È vero soltanto però fino a 50 km orari. Oltre questa velocità, il freno aerodinamico di un finestrino abbassato può far salire il consumo anche del 25-30%. Allora, diciamo che sopra i 50 km orari si ha un tale dispendio di energia in più per rinfrescare l'abitacolo che, consiglia Focus, meglio tenere i finestrini chiusi e usare il condizionatore. Speriamo così di avervi dato un argomento per la prossima volta in cui dovrete discutere tra attaccare il condizionatore e abbassare il finestrino. Andiamo su tutt'altro tema, tecnologia, internet. Ne parla Franca Roiatti su Panorama di questa settimana, una giornata con gli 007 del web. Alla periferia di Tel Aviv, ci informa Panorama, ci sono dei giovani informatici ed ex agenti segreti che danno la caccia ai ladri e ai truffatori che si aggirano in internet. Qui spiegano i pericoli e le trappole da evitare per non cadere nelle loro mani. Naturalmente vi rimando a Panorama per un catalogo un po' più puntuale, però vi segnalo che adesso c'è una truffa particolare che sta prendendo piede nel mondo, quindi arriverà o è già arrivata probabilmente anche in Italia. Si chiama vishing, non phishing, che è quel sistema appunto di mail con cui si cerca di pescare appunto qualcuno che abbocchi al trucco, ma vishing, un phishing della voce. Perché? Perché funziona così: al malcapitato arriva un SMS sul telefonino, l'SMS lo invita a chiamare un numero per risolvere una noia con la carta di credito. Dall'altra parte si trova una voce preregistrata, molto credibile e professionale. Questa voce invita la persona a inserire il numero della carta e altre informazioni. E in questo modo, in pochi minuti, il furto dei dati è compiuto. Tutto parte, lo ripeto, da un SMS che segnala problemi non meglio precisati alla carta di credito, quindi un meccanismo di truffa meno diffuso ancora, che forse è importante conoscere. Un altro meccanismo, naturalmente, che questi esperti che stanno a Tel Aviv e di cui si racconta appunto la storia su Panorama di questa settimana, è naturalmente il classico phishing che molti di noi hanno probabilmente ricevuto, il messaggio, l'email trabocchetto che ricalca il logo di una banca, di una nota banca, invita talvolta a modificare qualche dato, ad aggiornare qualche dato, ma più spesso, si riferisce in questo articolo di Franca Roiatti, si invita l'ignaro utente a verificare l'avvenuto accredito di 200 euro o una somma di questo tipo sul conto. L'indirizzo poi naturalmente punta a un sito che sembra il sito vero, il sito della banca, e invece non lo è. Quindi accanto ai tradizionali spazi per inserire il codice identificativo, la password, vengono poi chieste informazioni come il numero della carta del bancomat e altri codici ancora. È chiaro che compilando tutto questo su un sito che non è affatto quello della banca, si finisce per dare le chiavi del proprio conto corrente ai malintenzionati. Restiamo sulla rete, ma in qualche ambito un pochino più rassicurante, i social network. Ne parla l'Espresso di questa settimana. I social network come Facebook, come Twitter, insomma tutti questi luoghi virtuali di incontro delle persone. In un articolo di questa settimana l'Espresso ci segnala, Federico Ferrazza ci segnala, se non sei social non fai network, oramai sono questi social network uno strumento indispensabile per varie finalità: fare amicizie, creare reti professionali, inventare lavori, sviluppare ricerca scientifica, animare interessi e passioni. E ad esempio un elenco che viene riportato sull'Espresso segnala che oltre ai più tradizionali e più noti Facebook, Twitter o social network che servono a far incontrare persone o amici, ci sono dei social network che fanno ritrovare i propri compagni di classe, ammesso che abbiate voglia di rivederli, e fanno incontrare delle persone che possono mettere a disposizione la loro casa per ospitare qualcuno in viaggio, e ancora social network che servono per mettere in contatto i fedeli di religione cattolica, o altri social network ancora per diffondere il microcredito, o naturalmente il culto della cucina, indirizzi dei ristoranti e così via. Quindi un meccanismo della rete molto più rassicurante rispetto a quello che abbiamo visto prima sui truffatori e internet. Parliamo spesso di internet, parliamo una volta di televisione. Televisione, una rubrica affidata a Edmondo Berselli sull'Espresso, come sapete, ogni settimana. Edmondo Berselli questa settimana se la prende con, diciamo, la poca attenzione per la lingua italiana che si riscontra in televisione. Dice: il moltiplicarsi delle piattaforme, dei canali digitali e satellitari ha spalancato le porte della comunicazione TV una quantità impressionante di professionisti o semi professionisti del teleschermo. Quindi non solo giornalisti, ma cuochi, soubrette, commentatori di tutto e nulla, specialisti della funzione di ospite. Ma se esiste una certa professionalità diffusa, cioè la generica capacità di stare in video, avverte Berselli, ciò che è venuto a mancare è una dote primaria, cioè il possesso di un italiano decente. Innanzitutto è caduto il controllo proprio sull'emissione della voce, quindi per un fenomeno riconoscibile di reciproco rafforzamento tra lo standard TV e l'abitudine linguistica quotidiana, oggi le donne sembrano parlare in TV con voce di gola e di naso, gli uomini emettere in genere suoni dialettali, una sorta di abbassamento, di livellamento verso il basso. Ciò che stupisce è che non ci sia nessuna forma di controllo, specialmente sulla pronuncia. Basta guardare un TG di Sky, ma anche della Rai, anche di Mediaset, ascoltare un corrispondente da Palermo, da Roma, da Trieste, per chiedersi quale sia il motivo per cui non ci sia nessuno che intervenga per dire: cara signorina, cara signorino, ma non vi rendete conto che il vostro italiano con le vostre inflessioni vernacolari è impresentabile, non ci avete mai fatto caso, ma nessuno sembra farci caso. Quindi la diffusione appunto di parlate regionali molto molto accentuate e poco sopportabili, quantomeno da Edmondo Berselli, ma forse effettivamente anche per la maggioranza degli ascoltatori. Ricorda Berselli che Carlo Emilio Gadda, grande scrittore, romanziere, scriveva negli anni 50 il manuale per il buon italiano radiofonico. Adesso l'importante è apparire e il resto diventa un peccato di gola. Restiamo sull'Espresso per segnalare una iniziativa nuova di pagamento, micropagamenti, caffè brioche, pago con la card. Ci sono in arrivo, stanno testando in diverse città italiane delle carte di credito per piccole consumazioni, vuol dire al bar, dal giornalaio, al negozio sotto casa. Il tetto di spesa è 25 euro e non c'è nessun rischio, lo segnala Alessandro Longo appunto sull'Espresso. La sua immagine iniziale nell'articolo è appunto al bar, cappuccino e cornetto, e poi pago con carta, va bene, assurdo anche solo pensarlo, eppure già realtà in alcune città italiane. Le iniziative si moltiplicano, in questi giorni sta partendo l'ultima a Vicenza. Come funziona? Funziona così, spiega Longo, si tiene questa carta per micropagamenti, il POS, cioè il punto di pagamento, si collega alla banca, fa in una volta sola dal negozio tutti i pagamenti di queste microcarte con una singola transazione, in questo modo abbatte dei costi. L'utente quindi non paga materialmente nel momento in cui dà l'accesso a questa carta per il microcredito, ma in realtà soltanto alla sera quando avviene questo trasferimento di dati. In questo modo, se tra l'altro gli fosse stata sottratta la carta, ha il tempo di intervenire, così appunto spiega Alessandro Longo, per bloccare i prelievi della giornata. E con questa indicazione sul futuro prossimo, in alcune città italiane è già realtà per i micropagamenti, io vi saluto, torno ad augurarvi un buon Ferragosto, ringrazio Giorgio Mattè per l'assistenza in regia, Luca Cremonese per l'assistenza al programma e vi do appuntamento a sabato prossimo. A risentirci.